Torre di controllo, CQCQ, cambio VAS. Attento, Cingo. Attento. Ringo. Ringo. Mura. Luca. Sì. Vabbè, siete già spazzente. È all'ombra, all'ombra. All'ombra, sì. È entrato già? No, sono andato dal dentista e quindi ci avevo la serata libera. La lascia dormita. Ehi, posso masticare anche le cingomme. Oh, vabbè. Questo toroide, quando è che lo vuoi? Quando portarmelo tu, boh, faccio prima a comprarlo, boh, ma insomma, dai, ma, boh, facciamo un'ora di oggi, ieri. Avanti ieri. Avanti ieri. Te lo porto domani sera. Sì, a KK, aspetta, ma non ho la foto. Aga. Vabbè, Danilo. Vecchia. Ma sì. Vabbè, sono 5:20. Loro qua c'è il volume abbassato, ho visto apportante. Asco, dato che mi sono cambiato il cavo dall'antenna, come sto uscendo a proposito di tutto? Che sto cambiato il cavo dall'antenna. Bisogna che cavo hai messo. Stacca 155. Pronto? Cazzo mi sa decidere un clac 155. Meglio dell'RG58, ma è peggio della Camilla, però. La Camilla l'avevo smontato perché è tosto che la palla quello là. Ah, così è. Vabbè, però. Se vuoi cambiare un cavo, mettine uno di alta qualità, la Camilla, H155, va bene, meglio del 58 sicuramente. Stesso segnale è qua. Quasi 9:20. E tu stai usando il bambino, come sempre, che stai uscendo 9:40. Ehi, sempre il bambino. L'altra non è arrivata ancora, siamo sentiti e la sta finendo perché l'altra mollata che non è stato bene, adesso la sta finendo, ma intanto c'è una settimana 90. Ma non ne ho fretta, io non me la fotti nuda mai di oramai. La storia di quella radio, com'è, diciamo che è quasi finita, dai, già va bene lo stesso. Questa è più che ottima, poi quella lì quando me la manda la mettiamo lì e quando capita la useremo. Ma quale è classe? Il 140? 140? No, 190 li ho venduti tutti e due. 430 ho mandato al centro assistenza a dare una revisionata che ne aveva bisogno. Ah, dal dottore l'hai portato. Meglio, dai. Almeno sai i problemi che ha. No, veramente problemi non aveva. Te l'ho mandata funzionante al 100%, che era da revisionare. Una centratina, mi sta cambiando tutto il kit delle spinette con l'interno, no? Sai, sono tutte quelle spinette. Il kit delle spinette bianche che erano... si muovevano, sto facendo un po' di lavoretti del genere, dai. Qualche condensatore ha visto che è già in perdita, quindi visto che ce l'ha, l'ho detto di fare tutto quello che c'è da fare, almeno è nuova e dura altri 10 anni da lì, se no poi sai, ti si fascia e magari non c'è nessuno che te la mette a posto, invece la sto facendo revisionare, avevo già deciso di farlo fare da tempo, però non c'era nessuno che lo faceva, poi ho conosciuto questo tecnico e quindi la sta facendo. Infatti si è scusato perché è in ritardo, però prima la salute, è una persona che ha avuto un po' di problemi, quindi ho detto vai tranquillo che non ne ho fretta io. Ce l'ho la radio, non c'è problema. Meglio. No, io da Fusara mi sono ordinato quello spinotto là per l'MC60. E poi do tutto quanto in mano questo amico, così me lo fa tutto, si fa la prolunghetta. La prolunghetta per i miei 60? Ah, l'adattatore stai dicendo tu, da Icom a Kemut. lo faccio fare così, così no, no, magari metti che lo voglio vendere l'MC60, no, non devo stare a scellarmi a ripiazzare lo spinotto, lo lascio così, gli faccio la prolunghezza e ciccio. E anch'io ce l'avevo così, anch'io ce l'avevo così, quando usavo l'MC60 sull'ICOM, capito? E viceversa, no, non conviene mai toccarsi. Io ho il connettore spiralato, proprio originale, della Kenwood, che però anziché essere Kenwood è Yaesu, sono dentro il cassetto. L'ho trovato l'altro giorno che stavo mettendo a posto qua, e quindi dovendo magari avere uno Yaesu non faccio altro che staccare dal connettore dell'MC60 quello Kenwood e attaccarci quello Yaesu. Però non lo tocchi, capito? Sennò poi è un casino. Infatti faccio così, come abbiamo sempre voluto la volta scorsa, mi faccio la prolunghezza, l'adattatore faccio prima. Però se lo devo vendere devo ripiazzare nuovamente il connettore, lo spinotto e perdo solo tempo. Invece così lo stacco ed è un attimo e basta. Si conferma, è così, sugli adattatori conviene sempre non toccare mai niente. E così bene esce questo Saturn Echo? 9.40 mi stai arrivando. No, già esce bene, anche bella voce forte. Che microfono stai usando? MB+5, solo MB+4. Tanner+3B. Ah, il Tanner+3. Ehi, vabbù, dai. Mi posso confondere ogni tanto. Sì, ma non pensare, prima di usare il Tanner+3 lo usavo con l'MB+5 e funziona bene lo stesso, non c'è problema. Però il microfono suo è questo. Va bene, va bene. Tutti i microfoni vanno bene, basta che siano adattati bene, non ce n'è problema. Giusto. Adesso facciamo entrare un po' a Luca, che dobbiamo andare una volta ancora in realtà. Aspetti, mando un vocale, dove ce l'hai il telefono lì vicino? Sempre in tasca c'è il cellulare. Guarda, ascoltati questo vocale. Luca, bella bucaria che hai fatto. Ma cosa si vede? Che maniera che c'è cosa in mezzo al microfono? Guarda, ti ho mandato un vocale da lì. Sì, mi è arrivato adesso, ce l'ascolto. E beh, beve! Ciao Lucariello, e beh. Ehi, a tappare Lugla, sapendi. Sanino. Dimmi Luca. Ma che la chiudete la sera? Ma dove? A Predagnedo in viale Porto Torres. No, devo dare la risposta dal prezzo, davanti a quanto è il chilo. Quindi viale Porto Torres, alle 6:15. Scherzosi chissà. Vabbè, ascoltami, quanto era allora? Quanto mi hanno la risposta? 283 euro o 3,20 euro, comunque intorno ai 3 euro. Buono, buono, va bene, grazie Dani, dai, vado a fare una bella doccia adesso, a dopo, ciao, a dopo, e io, d'accordo, d'accordo, zappa, zappa, zappa, che tu sei nato per zappare, capito hai Dani? Ehi, sta ascoltando il vocale qua. Ne ascoltatelo bene. E quindi qua la radio c'ha questi problemi qua degli spinotti. Tutti quanti questi problemi c'ha. Oh, ma di quali spinotti? Del 436 c'è. Ehi, ma detto che c'aveva questi problemi ai connettori, quelli lì, quelli bianchi. Ah, ehi, con una radio giurata e vecchiotta, quella l'avevo presa 10 anni fa io. Capito, quella me l'aveva detta un'altra 10 anni fa. Era sempre, non ho mai avuto nessun problema. Mi aveva cambiato il display perché si erano bruciati gli ultimi due decimali, Fabrizio, altre cose non ne ho mai fatto, quindi ho conosciuto questo tecnico che è bravo e abbastanza onesto. L'ho mandata, ha dato un'occhiata, mi ha detto la radio è perfettamente funzionante, però ho visto che ci vogliono un po' di cosettine, spinette, mettici se c'è il kit, mettilo tutto nuovo. E sto facendo così, poi rifascetta tutto, insomma, una manutenzione generale all'interno, dai, niente di che. Poi ho detto, visto che ce l'hai, controlla se i componenti sono a posto ancora, se possono andare, per quanto possono andare. E ho detto, no, nel messaggio. salute, quindi la sto facendo solo, ho avuto problemi di salute e allora l'avevo mollata e adesso la ripresa, siamo sentiti venerdì, mi ha detto va, questa settimana te la termino, così te la mando giù. Detto, vabbè, fai quello che vuoi, non c'è problema. Ok, lasciamocelo un pochino a fare qualcosa qua. Che l'altro giorno stavo facendo un voltometro con i led e c'è un pochino di casino qua sopra. Ehi, vabbè, così è, Dani. Ehi, per non andare ogni volta in ufficio a chiedergli il voltometro per controllare le batterie, ho preso, l'ho costruita, adesso ce l'abbiamo nei punti, almeno quando non richiediamo niente, le controllo direttamente e le metto da parte. Gappa, gappa, la tante l'ha messa a posto la vecchia. Domenica me la sono sollevata, adesso devo entrare il capo dentro casa, che c'ho gli spazi per un cavo e per altri cavi, però faccio solamente quello per adesso. Ti ho capito. No, io dovevo toglierne quel dipolo che c'è, che l'ho promesso, e quelle altre due antennine piccole che sono rimaste. Però in questi giorni sono impegnato perché mi sto preparando tutta la stanza, l'ho già svuotata, tutte le radio le ho portate al Museo Carta, a Muros, e quindi sono tutte lì. Ieri mi ho consegnato anche il sommergibile, le ho portate tutte lì le radio, tutte al Museo Carta. Almeno so che sono custodite bene. Io nel frattempo mi sono appunto tenuto il garage e basta. Ed è tutto vuoto qua, svoltato l'armadio, cosa c'era dentro, guardano. Roba che stavo cercando da anni e non la trovavo, era dentro l'armadio. In delle buste, bustine, ho trovato anche, tra l'altro, quel carretto originale del coso, come si dice, dell'MC60, però c'è scritto Iaesu, c'è il cartellino attaccato e c'è scritto Iaesu. E sai quante volte mi è servito quello, cazzo, invece non l'ho trovato, un sacco di roba ho trovato. E quindi ho portato tutto, la roba piccolina me la sono portata in campagna già, e le radio le ho consegnate al Museo Carta. Ah. No, io domenica, sabato ho fatto asciugare un pochino il muro, dato che era bello caldo il sole. Domenica sono salito, ho fatto i buchi passanti da parte in parte ed ho messo la barra filettata lunga 25, 250 mm, e con il dado da 19. Ho messo il tassello chimico, gliel'ho spinto dentro piano piano filettandolo, così c'ha resina sia da una parte che dall'altra della barra filettata, e in mezzo. Adesso penso che già non ce la faccio a buttarla in terra, perché se lo butta in terra l'antenna vuol dire che ne sta scendendo la casa. Ecco, a me se ne cade il tubo che c'è io dove c'è la manto, vuol dire che ne sta cadendo tutto. No, ma io le recupero quelle piastre. Oh, mica le lascio qua. No. Quando poi trasloco che vado via, le piastre, smonto la manto, va. Quelle piastre con i tasselli, chiave a 19, vattene un gol. Quelle piastre lì, quelle staffe lì a piastra le tolgo, me le conservo. E poi devo vedere come montarla la mantova. Sì, in piazza, non in gioco, tanto. Te l'ho già spiegato, non è che ho questa grande necessità, ho altre cose a cui pensare per il momento, poi si vedrà, prima mi sistemo tutto, poi una volta è tutto sistemato, vediamo dove montare la mantova e la piazza. Come a prenderti tutto quanto, intanto se dopo non ci sei più lì, ma te ne vai in campagna così. Si conferma. Meglio, a Roma manco non c'è cura burotto del condominio, qui non puoi manco drodiare se che ti intendini tutti. No, io qua sto bene perché non ho problemi, sono da 87, no, ce n'è problema. È un bellissimo condominio e che sta iniziando a diventare troppo caro, capito? Già da un po' di anni a questa parte. È troppo grande, capito, Dani? Quindi in vendita. Ho detto ma sì, ma rimaniamo, ma chi se ne fotte. Adesso abbiamo deciso, anche perché abita anche mia figlia lì, capito, quindi ci andiamo a fianco a lei, lì a un balcone, 50 metri dal ripetitore della RAI, su, salendo a Monte Oro. E lì a fianco ci abita lo stesso, un amico mio che ci ha fatto la casa tutta quanta in legno. Appena più avanti del ripetitore rimane, sulla destra, il ripetitore rimane a sinistra. E ci ha fatto la casa lì lo stesso, anche lui. E cazzo, da lì si prende anche un bel bene lì, c'è tutto quanto Sassari davanti, Alghero. Sì, sicuramente fai qualche passaggio con Alghero. Non cambia niente, ho già fatto le prove. Non cambia niente da qua lì, anzi è leggermente più alto anche lì. Perché proprio 50 metri, siamo alla località balcone per quello, perché è proprio un balcone, vedi un poggiolo, così come lo chiamiamo, come si chiama balcone, vedi tutto Sassari, tra la zona del mare, Sorso, Senno, Iugio, tutto si vede. Alghero lo stesso, perché supera benissimo lì la collinetta, la collina di Monte Alvaro, è molto alto. Ma non mi interessa per quello, è perché l'avevo presa 4 anni fa quella lì, quindi è stata tutta ristrutturata e adesso basta, mi sono rotto le balle, ci vado anch'io e via. È qua ad aprile faccio atto, quindi è già venduta la casa. Ah, quella zona lo stesso, c'era quando stavo comprando io, stavo cercando prima. E avevo visto una casa lì davanti dove c'è l'antenna, lo stesso, però voleva troppo, e poi il terreno era troppo grande, no, non faceva. C'era anche tutto quanto l'olivetto, e non faceva, voleva altri 200. E non esce più allora. No, questo terreno non è grande, è piccolo. Sì, già ci sono una decina di alberi d'olivo, un pezzettino di frutteto, cioè, ma è... non c'è problema per quello, però è molto ben organizzato, molto ben organizzato. E adesso, ti ripeto, sto già facendo un po' di svuotamenti, dai. Questa stanza è vuota, già si sente il rimbombo, non c'è più niente. Altre cose le abbiamo già portate via e insomma sta rimanendo l'indispensabile per questi mesi che devo rimanere là. Ma quella, il terreno mi sa che era intorno a 7-8 mila metri, solo che per me è troppo, non riesco a stare dietro un terreno così, più lavoro, più il sabato e la domenica prendo il camper e me ne vado. Non conviene un terreno così grande quando ti piace stare in giro, no, non conviene, non riesci a stare dietro. No, 7-8 mila è grande, sì. No, il mio è neanche 3.000, 2008. Ma va bene, perché è tutto in giro la casa, basta, è tutta recintata, tutta fatta, c'è il muro e poi c'è tutta la recinzione, il cancello elettrico, c'è tutto, ma è bellina, molto bellina. C'era anche stamattina e ci sono gli elettricisti che stanno ultimando dei lavori di elettricità, ti ripeto, un paio di mesi, sto aspettando tra toccare a tempo buono, perché sai, non si sa mai che ti becchi quella settimana del cacchio che ha fatto ultimamente, di acqua fissa, perché il tempo non è stabile, siamo sempre a febbraio, quindi ho detto a fine marzo, primi di aprile, non c'è problema, allora molliamo gli ormeggi. E stamattina mi ero propenso di togliere quel dipolo che c'è e quelle due antennine piccole, che tanto non c'ho più radio, non c'ho più niente. Ma non avevo gana, Dani, non avevo gana, sono stanco morto in questi giorni. Sono sempre appiccato, bar armati, scendi, abbassa, tira, molla. Ieri, quando è domenica mattina, ho portato un cofano, più il sedile pieno di radio al museo. Al museo carta, a Muros, capito? Mio carissimo amico, ho portato tutto lì a lui. si arrangia lui, custodisce tutto lui, perché io poi non c'ho tempo, che devo tenere lì per terra, fare, tira e molla. E allora ho portato tutto lì, capito? E quindi sono stanco morto, roba pesante, un sacco di roba da lì, un sacco di roba. Già me lo posso immaginare. Già una giugarra dubbio di roba da casa da papà. Solo che devo portare ancora un altro po' di roba. Solo che prima mi devo finire qua. Solo in garage non c'ho spazio. Oh, garage non ne parliamo, ma io garage l'ho mollato perché intanto era diventato un montinaggio, appoggia, metti, siccome c'è anche mio genero, un garage e la moto sono lì, qua tengo solo quella piccola sotto casa, e qualcosa ce l'ho anche su mansarda è, mi già l'ha visto Massimiliano, è pieno di tubi, un bel di tubi c'è. Tubi anche belli, poi c'è rimasta un'altra direttiva, altre cose, cavi, un bel di cavi, che ho tutto smontato, e quindi anche lì poi con calma dovevo fare un viaggio e portare tutto in campagna, però la cosa che guarda, ho fatto per una settimana che sto svuotando questa stanza da lì, credimi, una settimana. Fortunatamente il DAC, quella radio grande, l'ho data a un collezionista di Treviso, che è contentissimo, mi ha detto che gli ha cambiato, c'era il potenziometro del calibratore dell'SWR che si muoveva, siccome lui è molto pignolo, a me non mi dava fastidio, si un po' giocava, gli ha cambiato quello lì e basta. E quella lì l'ho data perché a trattenere quella ormai la metto. Oh, non ho più stanza sala radio, oramai anche io mi tocca qualche angolino a casa, piano piano qua. Già non c'è fretta. Così è. Quando devi spostare la roba da una casa all'altra è un travaglio. È un lavoro un bel lungo. E di antenne UEV non ne hai, Cla? No, non c'ho più niente. Non c'ho più niente, è tolto tutto, ma non solo antenne, manco una radio c'ho UEV, manco un veicolare. L'ultimo veicolare l'ho regalato a un amico neo radioamatore, non qua di Sassari, che non ne aveva in macchina, gli ho regalato per metterselo in macchina. Non ho più niente, no, proprio zero, no, non mi interessa più, te l'ho già spiegato, quindi automaticamente cosa le tiene a fare le radio? Ho una monopanda sul tetto e terrò sicuramente, ma se mi capita di fare un po' di PMR, qualcosa, però devo staccarla quella lì, devo staccarla, la tengo perché non si sa mai, quelle piccoline, non monobanda, bibanda, cos'è, una X650 mi sembra, quella la conservo, non sa mai che debba fare, magari attaccare qualche portatile PMR, allora c'ho l'antenna, ma tutto il resto non c'ho più niente, tutto, tutto. È rimasto un dipolo, 5 bande, che devo regalare a Roberto. Dobbiamo piazzare da una punta all'altra che ci sta del suo terrazzo, c'è un terrazzone, Roberto Quadrato, già usato. E quindi dobbiamo mettere quelle, infatti volevo regalarle le direttive, le accolute. Aspetta, sono andato al telefono da lì. Vai, già sei sentito prima di squillare che stava arrivando la chiamata. Ehi, già squilla, ma sta sempre. Lì, torna la barangaggia. Cosa ti ha detto? Io che faccio pressa, così ti ha detto. No, vedere se poteva prendere un appuntamento per andare a casa, no? Già vinto, nel ritardo si è arrivato. Così è, piano piano, se che non si muovi, che giù baetto. No, poi l'ha presa la figlia di uno che abita nel mio palazzo lo stesso, capito? Perché l'ha vista, è piaciuta, no? Non ci sono assolutamente cose da fare. Che abita al terzo piano, e tra l'altro siamo molto amici, quindi avevo visto il cartello, ma tu la tua è quella, ehi, la mia, no, ti aspetto, no, che lo dico a Tiziana che sta cercando una casa vicino a noi, che perché i genitori abitavano qua sopra di me, figurati con la figlia sotto, manco lui dove è apparso. Infatti gli ho fatto un prezzo diverso dagli altri, gli ho tolto qualcosa, ma l'ho vista nascere, c'è l'età di mia figlia, è nata qua, è nata da Sabbiano, ovviamente è nata a Mevigliura, perciò sono più che contento che l'abbia presa lei, che è un altro randaggio. Infatti, come a dare la gente che conosci e fai prima. Tua figlia quanti anni ha? 28, 29, quanti ne ha? Aspetta, rispondo a un messaggio, Dani. Ok, da, vai. Si conferma. Ma è per il vela, la luce si è farata, per il vela, la luce si è farata. Ai, mamma mia, come sto? Oh, come ti ha cavato da fuori della doccia, ti ha parlato pure questo. Maga. Luca, se ma sei, come ti ce la prendi la doccia, una cavata da fuori, ti ha parlato pure questo, liquido. Ah, e avrà scivolato, stia attento, che lì subito tac. Faccio chiamiamo i pompieri, o l'autospurgo. Luca, ce l'avevo ripasso, capito? Luca manicomio, ce l'avevo ripasso, va. Poi poverino, hai sentito, sta uscendo dal lavoro, sta tagliando la campagna. Campagna lì, la ragazza sta tagliando l'erba, facendo la campagna bella, è lì vicino dove sono io, è lì sempre, su a carica in alto, capito? Lui, io salgo più in alto a Monte Oro, lui invece gira a destra, vicini siamo, 50-100 metri. Aspetta che sto ascoltando un messaggio. Ehi. Oia, che c'hai niente. Lungo era me. No, comunque, ti ho detto, Cla, quanti anni ha tua figlia? 28 o 29? Cosa? Tua figlia quanti anni ha? 28 o 29? 28 o 29, no, 34. 34? Non me lo ricordavo così tanto grande. Io mi ricordavo che era un bel più piccola. 34, ne ho 61 io mi. È un bel traluda che tu fai 61 anni, Cla. Magari te l'hai fatta a gioventù quando eri ancora piccino bizzone. No, è nata 2 anni dopo che mi sono sposato. No, comunque già è bello, da avere quell'età. Se potrei tornare anch'io indietro negli anni. Magari. Ma senza andare molto lontano, almeno 20 anni, a tornare indietro. Quanti ne hai da lì? 42. Già va bene, 19 in meno ne hai. Infatti quando io frequentavo lì a Carbonazzi, i grattacieli l'avevano appena iniziato a costruire. No, era appena entrata mia nonna, quando avevo iniziato a frequentare lì a Carbonazzi. Perché mia nonna abitava lì ai grattacieli, lo stesso. Ma qua dove abito io? Uno solo ce n'è, poi ho costruito quello dell'Enel a fianco, che è un piano in più, questo è 9 e quello è 10. Vabbè, queste 10 e quelle 12 praticamente, perché sono le mansarde lo stesso. Io sono arrivato qua nell'85, ho vissuto per almeno, hanno consegnato nell'87, quindi 2 anni, almeno 3 anni con la luce in cantiere. Cazzo, a luce dei cantieri. No, io frequentavo 89-90 lì, ho frequentato, un paio di anni ho frequentato. Poi mi sono spostato da un'altra parte, all'emiciclo, poi all'emiciclo ho frequentato 13 o 15 anni, sempre fisso lì all'emiciclo. No, io qua bastano. Niente frequentazioni, io quando sono arrivato a Porto Torres sono arrivato qua e basta. Ero già residente a Sassari, via Monte Grappa, con i miei soci. E poi quando ci hanno consegnato la casa eravamo io al secondo, cioè mia suocera qua al secondo, dove sono io adesso, io al nono. E al nono piano ci ho abitato dall'87 sino al 2000, sino al 2000. Sino al 2000, perché poi i miei suoceri sono venuti a mancare, quindi questa è rimasta vuota, E allora abbiamo fatto una scelta. Cosa facciamo? Vendiamo quella o vendiamo questa? Mia moglie e mio cognato, che sono un maschio e una femmina, hanno deciso di questa, di non venderla. Allora, io vendo due la mia. La nona me ne sono sceso al secondo. E magari era meglio al nono. Hai sprecato più capo a scendere al secondo. Sì, ma ho guadagnato una stanza in più, però. Capito? Quella là c'aveva due stanze solo. Io mi avevo fatto in una resega del muro, avevo rifatto i piani, mi avevo fatto il falegname, avevo messo tutto lì. C'ho ancora bellissimi ricordi perché c'ho tutte le foto. Qua invece, essendoci tre stanze, me ne ho preso una io, mi sono fatto una sala radio. E allora mi sa che abiti nello stesso palazzo dove abitava mia nonna. Minuscio faceva di cognome, Maria Minuscio. Caspita. Allora abitavo, io ero nella scala G e lei era in questa nella F. Dove abitava mia, dove sono adesso? Perché io prima ero nella scala G, a fianco, sempre nella torre. E allora non ho piano, lì era qua nella F, non mi ricordo se era al quarto o al quinto piano, boh, a metà era comunque. Adesso non me lo ricordo se era il quarto o il quinto, non me lo ricordo. Comunque abitava lì in quel palazzone lo stesso. Sì, e già degli anni, e mi sa che 89, 90 che è morta. Nel 90, fine 90 è morta tua nonna, se quella che dico io sì. Sì. Che c'ha l'altro figlio, quello suonato, quello lì. Ehi, non è suonato, un po' così, è da pesce. Ma da pesce, secondo me non si ragazza più da un bel paio d'anni, forse da quando è nato. Era strano quel ragazzo, era molto molto strano, non è che legasse molto con noi, noi eravamo, siamo più ragazzi, giocavamo a pallone qua sotto. Lui si affacciava spesso alla finestra che disturbavamo, che facevamo. Ah, venire i bimbilistri, che è. Tutto quanto pareva di gioia. Faccio ogni volta che mi vede. Ciao Dani, come stai? Accelerai un euro. Questo è un euro. A te lo do un euro. Adesso se prendi la mia domanda. Sicuramente adesso è molto più barbuziente. Quando le noghe peccava Bobbo, era già un pochino tardivo, ma è nato così secondo me, no? Problemi da piccolino ha avuto problemi da piccolino. Stava sempre insieme a mia nonna, anche quando erano su in via Sorso. Quindi si chiamava le cose, era tutto il mondo. Accompagnava tutto, sì, non ricordo. Comunque era una brava persona, non è che ci ha creato problemi in quegli anni che ha abitato qua, assolutamente. Assolutamente, è che era un po' rompipalle, non voleva giocare, non voleva a sbattere la palla sotto il porticato, noi ti facciamo la porta da un pilastro all'altro, capito? Poi c'erano un bel di bambini, così sono nati tutti qua, dei vecchi sono nati tutti qua, tutti. Solo a Locherbino non aveva tre, due femmine e un maschio. E Nicola e Tiziana, quella che ho comprato la casa mia, sono in due, un maschio e una femmina, mia figlia. Poi, tutti qua sono ancora tutti grandi, tutti. E abitano ancora qua, sono nati qua, li ho visti crescere, li ho visti tutti crescere, capito? Come il palazzo a casa da papo, un po' che poi ci hanno visto tutti quanti nascere lì. Il primo sono stato io, no, il primo quello del quinto piano, poi quello del quarto e poi io, e poi tutti quanti gli altri a scendere. Ma è bello però che te ritrovi qua, dall'asilo, poi mia moglie, figurati, lavorava all'asilo nido, quindi... Erano tutti con mia moglie, tutti grandi. E adesso che sono tutti grandi, hanno l'età di mia figlia, ma tutti a scaletta, Mia figlia è una delle più grandi, gli altri sono intorno ai 29, 30, 32, 31, 33, ce ne sono due coetanei, lo stesso, dell'86. Quindi insomma. E uscì, e uscì. Cappa, cappa. Guarda, vai dai, Flo. Facciami, faccio un pochino, mi sistemo un pochino qua, che c'ho un casino nero. Se ne giù poco di roba. Facciami, sistemo un pochino qua, aspettiamo che entra qualcuno in radio, dai. Ehi, sono qua, io tanto sto guardando la TV, sto facendo alcune cosettine, cosettine così, dai. Niente di che, mi sto mettendo a posto, siete rigorosa, ma avevo un armadio pieno di radio riviste, mettendo a posto un par di palle, le sto mettendo dentro una busta, e stasera, dopo il porto il cane, si dirà poi un bambino, le sto facendo tutti a pezzi, e le sto buttando nel cassonetto. Ma c'è anche riviste di radiotecnica? No, sono le radio riviste dell'aria, non me le posso nulla. Ah, no. No, perché io ho quelli di radiotecnica e ogni tanto qualcosina da lì la spuccio. Mi metto a farla. Tanto per passare un po' il tempo. Ehi, ehi, ehi, sono cose belle quelle. No, qualche una ce l'ho di quelle CQ elettronica degli anni che furono. Quelle già le tengo conservate, invece c'è sempre qualche schemino, qualche cosa che può interessare. Ma anche se radio rivista ho venuto. Te sto dando un'occhiata se c'è qualche pagina che può interessare, ma no. Le radio vecchie, le radio, insomma, così, ma niente di che. Va bene, dai, Dani, già sono qua in ascolto io, non ti preoccupare, ok? Se hai bisogno, già lo sai, telefono. Un messaggio ogni tanto a salutarci. Gappa, gappa. Andava, dai, intanto sono anch'io qua in radio, no? Così magari entra qualcuno e ci facciamo un'altra chiacchierata. Lasciami, ci stiamo un pochino qua che c'è un casino nero. A dopo, da. Ehi, ciao, ciao, ciao, Dani, avanti, Max. Santiago 7, Radio 5, con la speranza che tu mi ascolti. Fiume Santo al mare, si va a pescare, si è andato. A pescare, si è andato. Sta bene. Ma freddo c'è, no? Era per un bacio. Lo so, infatti c'avevo la finestra aperta e l'ho chiusa, perché quando va via il sole poi la sera, ma la giù ti fa freddo già, rientratene, vai Lugarieri. Non so se mi ascolti, io sento basso, già mi ascolti? Certo, Santiago 0, Santiago 3, Radio 5. Io l'ascolto, basso l'ascolto, e magari sono negativa per me. Io mi sto prendendo, anche sono tutto lavato, grazie, per carità. Sono proprio di terra, ero qua. Cappa. Dove sei già? Sta più messato, non è più bassi, no? Va bene, Santiago adesso ha fatto quasi 9. Prima era Santiago 7, quando mi ha chiamato, adesso è quasi Santiago 9. Adesso sei in di segnale, Sono stato ascoltati i video già. Sì, già è buona, dai. Già è buona, non sei stabile. Comunque ti ascolto, dai. Ma guardi qua. In movimento, c'è un po' di QSB, comunque 5, 7, 9, dai. Non c'è problema. Poi quando ti metti lì nella strada già arrivi meglio. No, io già ti vedo, già, non ti preoccupare. Vedo Porto Torres e Fiume Santo, quindi. Vedo anche a te che stai camminando. Gappa, gappa, sempre occhio alla penna lì, eh. E si conferma. E non si mai niente, Lucaria, sempre mastigando, sia che tu la devi sempre mastigare. Un paio di baffo mi sono mangiato. Merenda, poi stanotte vediamo, boh. Stanotte vediamo, cosa che passa al convento. Vai già. Da solo sei già? Ah, pensavo che dice sono da solo, va bene. Già ti accoppio. Ah, ok. Ma con Britella sì. No, forse due chi va porto d'ora. Solo a te poteva andare a pescare, altri pescatori professionisti come voi non ce n'è, quindi la coppia è quella. Ciao Fra, buonasera. Buonasera Claudio. C'è una pedivella, mi zoffra, udarai. Franco California, senti qua, vita mia, che è? Non mi intendiamo. Cosa non ti sente? Avanti, già non ammiri, Gembe. Avanti. Non sono tutti che hanno... Oh, Carmelo, mi ascolti? Buonasera, da dove sta trasmettendo? A me, ascolti in basso, hai detto? Oh, un secondo, lo prendo subito, ciao immediato. Ciao Claudio. Guarda, non mi senti che sto parlando di questo? Sì, sì, lo stavo provando a parlare con gli stazzini. Sto passando, va bene? Sì, ho sempre un MC60, senza essere affetticato, quello semplice. E ho messo un cambio di classe, ho messo uno la karaoke, ci siamo parlato un attimo. E guarda, sì, l'avevo fatto, intanto mi sono lavorato senza mezzo, e poi ci appoggiamo. Ma non avevamo ceduto con il microfono, e come se non ci ho bene. Sì, sì, adesso va bene. Infatti subito gli ho detto a Franco che la comba e detto questo qui è un tempo di quelle mesi 60, adesso andava a lasciare. Sì, però sembrava una bene. Dove stai trasmettendo? La Porto Torres? No, ho scoperto il microfono e ci ho attaccato questo qua. Io tanto là dovevo cambiare la cazzo sicuramente perché usciva male. E poi ci ho provato a vedere se va bene questo. Ah, lo stai trasmettendo? Forse non mi sente già. Sì, adesso sì. Sono chiamato a Porto Torres. Ah, Porto Torres. Mo' strano, io arrivo bene a Porto Torres. Voi ci fate sia zona negativa per me. Io non ti sento male comunque, a volte non mi stanno correndo, sono chiamato 4, però la ramo bene. Sono rientrato, Ciao Emiliano. Come Carmelo, E no, mi farò la senti? E adesso non mi posso di caranche. Beh, si assomiglia un po' a José Carmelo, se Emiliano, a Porto José Carmelo. Si assomiglia un po' più al 60, però ti ripeto, la modulazione è sempre cupola, sempre molto cupa, sempre con tonalità medio-bassa, mi mancano gli acuti e non lo so se dipende dalla radio che è un po' stretta, un altro qualche girettino lì, oppure se è la tua voce, o bisogna sentirlo con le MC60, quello preamplificato. Allora ti dico se va bene o va male, Emiliano. Ah, vabbè, e non te lo so usare un po' meglio che ho fatto prima, con l'altro microfonino. No, sicuramente molto meglio, però c'è ancora qualcosa, devi trovarti, te l'ho detto, un 60A amplificato e poi vedere un po'. C'è uno che ce l'ha, in buone condizioni, se ti serve fammelo sapere che glielo dico se ce l'ha ancora. No, per il momento, guarda, prima di tutto mi devo prendere la mia fattore. Ah, PS50 preti, però mi non prendere il 430, altrimenti c'è 20 ampere, preti 30 ampere. No, io ce l'ho, ma non lo ho perché è di linea del 430, se no poi rimango senza. Va bene, vediamo un po' dove è arrivato doppio room in tandem con Britella. Dove sei, fra? Aspetta una chiamata, sì. Santiago 9, Radio 5. Parlate la tua, stai usando già. Sì, Santiago 9, sì, già non c'è problema. Ti ha chiesto Luca se stai usando l'antenna tua o quella di Gianni. Quella che ho dato io a Franco. Bene, c'è quell'antenna, sono venuto avanti. Era una grande scoperta quell'antenna. Peccato che non ne ho più trovato come quelle. Quelle che l'avevo comprata alla fiera di Milano. Pensavo fosse un'antenna VHF per la macchina e invece era Bonavitisetti, allora l'ho data a Franco. Lo so, Franco è così, Franco ci tiene molto i regali. Se la deve dare, per carità, può fare quello che vuole, però una persona ci tiene molto i regali. Io quella gliel'ho regalata quando ho tolto l'impianto dalla Saxo, l'ho regalata a lui, già lo sa. L'altra invece l'avevo data a Pinocchietto Moro, capito? Quindi poi veda lui se te la vuole dare, io non sono geloso, a me non mi interessa, però una persona che ci tiene molto regali. Ed è quella l'antenna che viaggia molto molto bene. Non è grande ma fa il suo lavoro, esteticamente è anche bellina. Avanti, lui, guarda 77 già. E sempre 79, sì. Avanti, oh, Luca, riprendi, guarda 77, poi vai per Emiliano. Sì, aspetta un attimo, guarda, riprendete voi Caulà. Vai Emiliano, riprendi con Gianni che sto guardando, mi ero fatto un messaggio, riprendi. Ok, e quindi Gianni non avete pescato niente. C'era questo venticello con una presa leggera leggera. Niente, va, che è passata una bella giornata almeno. Ci eravamo preso, la luna eravamo, c'è così tutto il sole, poi c'è la cabronza. E ha cominciato, ho preso le 5 e un po' di freschezza. No, non c'è, non il sole, c'è più freddo. Freddo c'è. E io ho visto cosa c'era di nebbia a Sasso. Ma ieri notte? No, non l'ho vista, non c'era, io ho portato il cane, ho registrato il break. Io ho portato il cane e poi niente, hai capito? Poi mi sono intanato dentro casa, quindi sicuramente dopo. Ma poi magari nella parte bassa, qua è difficile già che ci sia nebbia, nella parte alta è difficile. Vediamo un po', c'è stato un break, avanti, buonasera, Claudio Sparviero, Emiliano da Porto Torres. Luca Manicomio e poi c'è Gianni Doppio Roma in barra mobile in tandem con Franco Califano. Avanti break. Ciao Cla, buonasera, ben ascoltato e ben entrato. Vediamo un po' se ti ha ascoltato o Porto Torres o Porto Torres, vediamo. Emiliano, l'hai sentito a Claudio Damuros? Sì, non l'ho sentito. Ciao Claudio Damano, Porto Torres. Hai sentito già Claudio? Guarda un caccia, Fai pure, ma no, non pensare che non arrivi, ti ho detto che quell'antenna la bombarda, io pensavo stavate usando la tua. Perché come sei partito di Santiago 7, lì dove c'è praticamente l'impianto influenzato, come sei uscito dalla strada 9. Ti ricordo la mia posizione, però non sei vicino, non sei vicino. Santiago 9, sei sempre 9, 9, 5, 8, con questo B, ma il segnale è molto, molto alto. Prova a vedere da lì, perché il flanco lineare non ne ha in macchina, quindi quanti watt sta usando? Devi considerare anche quello. Sei 9 adesso Gianni, sei 9, Santiago 9 con 5 watt, no è buccia di gioca da lì. Tieni conto che tu c'hai anche più watt, quindi Santiago 9 da lì da dove sei, non è. È un segnale ottimo, non buono, ottimo, capito? Avanti muro, se cambio! Ma là, vai adesso, ti sento bene, Santiago sui 9, vai sì. Io come ti arrivo che l'ho arrugginito da qua, sono i Pirreanti, la strada sono i Pirreanti, quella che porta a Porto Torres, dalla Butibuti. Cava gava, incrocio della morte, sono i Pirreanti, quella zona lì. E adesso sto percorrendo tutta la strada di Sosso di Pidriazzi e infatti dopo vi voglio chiedere un controllo da lì come sta andando, questo è un apparecchio è modificato, quindi Claudio non sta più fatto. Cavolo, ti sei tornato dalla lavoro? Perché siamo andati a Masciato e siamo Pidriazzi. Sì, non era quello vicino. Sei anche Sasso, a quanto sei forte. Quindi io già andavo prima a mangiare un pesce in pescheria, così fermo. Sì, tanto l'interessante è che la macchina di tutti i percorsi può fare anche questo. Cava gava, io al Claudio sto arrivando a recupero il sorso di Pidriazzi. Adesso solitamente da dove si arrivavo io 9:10 quel tanto lì. Guarda a vedere come sta andando adesso, comunque già siamo organizzati, dai qua, sappiamo. Se si è organizzato è un conto, ma devi dire se c'è o non c'è, perché se c'è è al tuo segnale, se non c'è allora è un problema. 9 più 10 stai arrivando. Sì, sì, c'è. 9 più 10, 9 più 10. Cava cava, e allora va bene questa antenna, dai, l'abbiamo tarata per bene. Vai, vai, vai, che è aumentato appena, vai. Sì, da me qua 9:20 sta salendo. Sì, 15, Lucas. 9 e 15, addirittura da Danilo 9 più 20, sì. No, sono sempre nelle curve, sono sui bidiazzi, Flash. Ma hai fatto qualche curva che c'è stata qualche apertura e si è andato quasi a 9 e 15. Da Danilo sei 9 più 20, che lui è a Sant'Orso, a 9 più 20. Cavallo, va bene allora, se la posso fregare a Franco questa antenna. Fatela là, se te la va, la vira, brava. Era un amico Gianni, dai, ormai c'è la piazza fissa nella sua macchina, quella è bellina. Dai, fai uno strappo alla regola, già non ti dico niente io, vai. Dagliela, fra, dagliela, che già non mi adiro io. Vai tranquillo. KK. Allora, Muros. Ciao Dani di nuovo, buonasera, ben sentito. Muros, riprendi che devo ascoltare un messaggio di un amico. Prendo 9 fisso, anche a Antonio si chiama questo che c'era adesso, anche a lui a 9, sembra nella stessa zona. Hai visto già come esce il sommergibile, eh? Mi sembrava con microfono. No, sempre con la microcornetta, non si può attaccare lì, perché c'ha tutto il comando da lì, capito? Adesso poi vedrà Gianni cosa bisogna fare. Quella appartiene al Museo Carta, tutte le mie radio sono andate al Museo Carta di Muro, so. Ciao, dai, va bene, adesso sarà contenta la moglie e ci vede tutti quanti da parte in casa. Va bene, piano piano poi già se le sistemano, l'importante è che le mettano lì al museo, ma almeno sono tranquillo, dai. Se no a me mi toccava mettere di nuovo tutto dentro l'armadio ed era un casino, invece ho fatto una cosa fatta bene. Già gestisce tutto Claudietto. Avanti Emiliano, ci sei ancora? Non c'è più Emiliano. Riprendi il tuo Danida che ha parlato di meno. Signore, vi saluto, dove devo andare. Mi è fatto piacere, ci sentiamo nel corso. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ci sentiamo, dai, buonasera. Ciao Emiliano, che ero al telefono. Cavagliara, Luca, avanti, Magna Magna. Catalagno, stai crescendo la panza. E allora, poi siamo là, per guardarlo. Quello lì sono troppe merendine. Troppe merendine, tutta la roba che ti piace, ui, vai, ne mangia un chilo. E tassero vai, il rubizzino deve crescere ancora. già fanno bene le banane, dai. Basta che ti rimani con la bocca. Banane, mi piace la banane. Ui, tu credi? Non c'è questa provocazione, dai. Non ti ho capito che stavo facendo cosa, cos'è mi hai detto? Ho detto che Luca non accetta provocazioni. No, già in gamba Luca. Cara gara, meglio ci può scherzare, dai, ce la fa per scherzare. Luca, aiuto, ti ho trascinato la merendina dentro la doccia, la stai recuperando, aiuto. Gamba, scusate che io ogni tanto mi mandano dei messaggi e devo rispondere purtroppo, non posso fare maleducato. Dove sei arrivato, Gian? Alla Budi, dal Ferro Vecchio. Allora, delle Bari, 9:15. Al Ferro Vecchio sono, quello, come si chiama, di... Cosmino però il primo, non il secondo, il primo Ferro Vecchio di Cosmino. Aspetta un attimo, K di Rogero, non c'è più nessuno? Ok, anch'io ogni tanto sono al telefono. Avete fatto qualcosa con quelle radio? Niente? Ehi, tu figurati che con il sommergibile stai arrivando, quando arrivi col baracchino in lineare attaccato. Puoi immaginarti, hai visto che si è arrivato anche a Portoglese in macchina, vedi tu? Ambra bestiolina, ricordati che lì non puoi attaccare niente, quella è una radio a 24 volte, non fa danno, lasciala così che quella già va bene. Già va bene, sei 9 più 20, perciò col baracchini arrivi 9:10, adesso sei 9 più 20, poi ti abbiamo sentito tutti, c'è anche una bella modulazione. Campa di Rogero, mi raccomando, il Museo Carta deve essere in ordine, custodito, tutto bene. Non penso proprio che torni lì, no? A tu la sei fasciata. Già, siamo già d'accordo con tuo padre, non ti preoccupare, qua. Tutto a K del Rogero, già va bene. Aspetta che rispondo un altro messaggio. Bisogna attaccare la bandiera, museo carta, capito? Aspetta, rispondo, poi già riprendo subito. Che c'è un paio di amici che stiamo messaggiando. Mi sono Mazzendi, aspetta un secondo. Ehi, aspetta. Vabbè, non c'è più nessuno. Attento, Britella! Claudietto! Claudietto! Avanti! Oi! Ecco Danche! Ah! E cosa? Ah, Gesù, che c'è un messaggio! Vai, leggi, leggi! Già sono qua io! Sembra una cultura! Non ti ho capito, aspetta che sollevo appena il volume che ce l'ho passo passo! Ti ho detto che ti fai una cultura! È una cultura di radio oggi mi porto. Ma in questa radio volevo capire come si solleva il volume, i watt. Ma ancora non voglio comprare giù nulla. Entra nel menu, è facilissimo, 7000 non si colloca la signora radio. Oh, devo fare un passaggio un pochino lungo, mi stavo leggendo le istruzioni anche la volta scorsa. Devo fare un passaggio un pochino lungo e alla fine riesco a sollevare i watt. Perché è 5 watt adesso. Entra nel menu che già c'è. Se parlate in due io non vi capisco. Aspetta Dani, che se no non ti sentivo e stavo ascoltando un messaggio in contemporanea. Cosa hai detto? E se parlate in due non vi capisco. C'era qualcuno che stava parlando insieme a te. Ehi, stavo ascoltando il messaggio. Ah, ecco perché. Infatti ho detto, aspetta un attimo, se no lo comprendo, non ti capivo neanche io a te. Cos'è che hai detto? Devi entrare per aumentare che cosa? I watt di questa radio. Perché a 5 watt e no... Boh. No, a 5 watt, quella sale sino a 100, non è come te siete dello sì. Quella va sino a 100. Allora, mi sembra ci sia scritto RF Power, o Power solo. O PW mi pare c'è scritto, adesso non me ricordo, nel menu. Lo stavo guardando anche l'altro giorno, però devo schiacciare F1, poi, no, menu, poi F1, e poi mi dà un'altra sigla, e non mi ricordo che cosa era. Comunque è una procedura un pochino lunga, eh. Tutte così sono quelle. F1 saltalo, se una volta che tu schiacci F1 e nel display non ti segna i watt, o la W, o watt, o power, qualcosa ti deve segnare, no? Perché poi c'è HI Love come tutte le altre, anzi c'è, no, aspetta, lì ce ne sono tre di potenze, c'è Love, Mid, HI, quindi devi andare, quando ti appaiono quelle scritte, allora ti puoi muovere e aumentare i watt. Ah, adesso il display ce l'ho con ALC, il compressore e SWR e le stazionarie. E aspetta se ti invio la foto, così vedi come ce l'ho adesso il display. Ah, la conosco con la radio, già la conosco, non ti preoccupare. Ecco, tu devi saltare quel parametro lì e arrivare all'altro parametro, dove c'è la parte dei filtri e la potenza. Nel menu deve entrare, che adesso non lo so, aspetta un attimino. Devi entrare nel menu sino a trovare quella parte lì, dove c'è la parte dei filtri, ok, e poi c'è anche la parte dei watt, dovrebbe essere lì comunque, e ti dà tre posizioni, love c'è scritto, mid, HI. Avrà proprio intendere la giura che c'è radio. C'eri tu e in più la radio che stava parlando dicendomi i numeri in inglese. Ma sai che devo capire come ne devo uscire da qua. Sì, perché c'è la scheda fonemi incorporata, io sono a radio, non è un giocattolo, piccola ma sincera, poi di ultima generazione, SMD, tutta digitale, cosa, non hanno da che fare con 706, con tutte quelle che sono uscite 20 anni prima. Comunque un macello, riuscire a capire come funziona completamente tutta. Non è roba che impari in 5 giorni. Ma anche tu Dani, devi iniziare a leggerti il manuale, certo, ma non serve se te lo leggi, parametri per parametro, e ti guardi soprattutto i passaggi principali che possono servire a te in questo momento, capito? Per essere veloce. Se non impari almeno quelli, poi ti incasi.